Certo. Stai attenta nel... Sì, togli scherzi, togli la sedia. Possiamo togliere la mascherina? Avvicinati. Dai, perché... Avvicinati. Sì, sì. Però prendi soprattutto le signore, cioè io esatto, bravo Yuri, perché va bene tutto, però no, ma se lei riesce a farmi venire bene in foto, certo, le macchine fotografiche oggi come oggi sono magiche, sono una centrale. Ma se poi il materiale però qua non c'è niente, è tutto. No, se vuole, ma per l'articolo, detto che viene Guercio. Sì, lui scrive, io faccio la foto con i carabinieri. Sì, io so, dico Guercio, chiederà di sicuro il PowerPoint. Un po' peggio. Ma dico, il Guercio chiederà poi il materiale. No, la dico lui. Tu hai portato l'inventario cartaceo? No, arriva il Dario con l'inventario cartaceo. Tu chiedi e io venisco, cioè non lo so, cioè perché finire ha una scarsa considerazione. Stasera scavo. Basta, basta. Chiedi, non ci proponiamo più a coordinare il seminario per i prossimi 5 anni. Che c'è? Bellissimo. Conosci Beppe, che lui di Seriate, questo Giuseppe? Sì, sì, Beppe, strega, sì, non stavo pensando, sì, sì. Cioè, quando si cerca uno, un volontario, si va da Beppe. Fa così tutti ormai. Domenica non sono a Lovere. Sei a Lovere? Ci sei? No, non vengo domenica. Salutato tuo marito, ma neanche tu hai salutato tuo marito. E Manalia lo conosce? Ci siamo incrociati in città. Come si chiama? Codeca? Codeca? No, Codeca, il Matteo Capcasa, detto anche Codeca. Non ho ancora guardato. Ogni volta però viene Guercio, lo conoscete? No, da quello che io lo conosco molto, da quello che scrive, non è io. Gli è affidata un po' la cultura, la linea culturale dell'Eco di Beppe, che è tutto Dio. Lui no, sarebbe, no, no, ma lui sarebbe anche, io non lo conosco di persona. Sa anche tenere in mano la penna, ma ogni tanto va un po' per il suo. Si adegua molto alla linea del giornale, della condiscendenza, dell'accomodamento. Penso che all'epoca la vita sia così. Non era così con la Spagna. Era stato peggio. Molto meglio. Con Don Spada c'era qualcuno che poteva fare tutto quello che voleva, li sceglieva lui. Sì, solo che adesso non c'è più una voce discorde. Ma perché c'era voce discorde? Certo, perché collaboratori di Don Spada è stato Laresi. Laresi è un ragazzo che io me lo ricordo studente, movimento studentesco e tutto, lui l'ha preso immediatamente. No, perché ripeto, non sempre ho sentito dire. No, se vuoi dire che era comandava nel vero senso, sì, sceglieva, però sapeva scegliere anche qualche voce un po' discorde. Adesso è come un direttore incapace, Ceresoli e tale. No.